questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sosso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, Franco Pietrini, autore di questo programma, Claudia Schiattoni in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Voi al telefono come tutti i giorni, 800 24 00 24. Non dimenticatevi la maglietta per il migliore in campo ogni giorno, che verrà assegnata al nostro insindacabile giudizio, poi vi dico il resto. Dunque, io sarei dell'idea oggi di divertirmi insieme a Sara, nostra affezionata ascoltatrice, che manda subito un sms. Idea geniale, Inzaghi alla Juve al posto di Conte, visti i buoni rapporti tra le due società, ma sì, divertiamoci. Inzaghi alla Juve, Conte alla Juventus, Montella all'Inter, magari Mazzarri alla Fiorentina, tanto in questi giorni vale tutto. Purtroppo non sarà totalmente possibile perché è giorno delle convocazioni, è giorno del listone dei 30 anche per l'Italia. Tra l'altro questa mattina ci sono stati i 30 preconvocati della Spagna, con quella che secondo me, alla luce di ciò che sta succedendo, di quello che abbiamo visto in questa stagione, è una sorpresona che non mi aspettavo. Non c'è la Spagna Callejón. Se a loro non serve, visto il campionato che ha fatto con il Napoli, cerchiamogli un avo italiano, perché a noi farebbe un gran comodo uno come Callejón. In compenso ci sono giocatori come Navas e Fernando Torres che non sono reduci da stagioni esattamente brillanti. Ci sono anche i preconvocati della lista dei 23 della Svizzera, ci sono 5 italiani qui abbastanza previsto: Berami, Inler, Zemaili, Ziegler e Lichtsteiner andranno al mondiale con la Svizzera. Abbiamo letto sui giornali dei 23 inglesi che ci affronteranno la partita inaugurale del mondiale, ma anche qui non ci sono sorprendenti novità. Zaccheroni per il Giappone ha convocato Nagatomo e Onda. D'altra parte, Onda prima di arrivare a Milano era uno dei migliori giocatori di quella nazionale, era uno dei migliori giocatori del Giappone. Poi qui chi l'ha visto? L'ha visto Seedorf, non tanto Galliani, Seedorf però l'ha visto, l'ha fatto giocare, l'ha proposto senza grandissimi risultati. Però non tergiversiamo, ragazzi, è il giorno del listone dei 30 convocati azzurri. Giuseppe Rossi ci sarà. Non ci aspettiamo grandissime sorprese perché i nomi sono grosso modo quelli noti, compreso Chiellini. E allora c'è questo interrogativo che circola da ieri. Adesso non facciamo troppi tifosi, proviamo a valutare le cose. Chiellini è della Juventus, ha fatto quel fallo contro la Roma, c'è il precedente di destro. Proviamo a valutare le cose con se ci riusciamo, eventualmente con un minimo di distacco. Secondo me Prandelli benissimo fa a convocare Chiellini in questo caso. E se vi devo dire la verità, non sono mai stato d'accordo sull'esclusione di destro. Insomma, due contrasti certamente violenti per i quali i giocatori sono stati squalificati, stessa sanzione, 3 giornate. Sono a mio avviso scomposti i contrasti di gioco, cioè non è assurdo far rientrare questi comportamenti all'interno di un codice etico e poi valutarli in maniera differente, perché sono due episodi secondo me molto simili che Prandelli ha giudicato in maniera differente. Poi se ne cavate dicendo: ok, ho visto e rivisto questo episodio, per me non è gioco violento, non è passibile di sanzione, della sanzione dell'esclusione, non ricade nell'applicabilità del codice disciplinare, Chiellini me lo porto. E come d'altra parte, ma voi avreste potuto pensare l'esclusione di Chiellini, cioè uno dei pilastri della difesa della nazionale italiana, almeno secondo Prandelli, escluso per quell'episodio alla penultima di campionato, per quel gomito alzato eccetera, cioè secondo voi sarebbe stata una mossa intelligente, magari etica, ma calcisticamente intelligente? Diciamoci la verità, escludere Chiellini per quella roba secondo me sarebbe stato un clamoroso autogol. Sentiamo due dichiarazioni di Prandelli di repertorio, però non abbia cambiato idea, no? Il nostro CT. Una è del 14 di aprile, giusto? 14 aprile, Prandelli. Quando abbiamo deciso questo famoso codice etico, io dissi ai giocatori: ma se la domenica delle convocazioni io sto guardando le partite, ok? e vedo un mio giocatore che è già convocato perché ho scritto questo nome, che dà una gomitata, eccetera, eccetera, eccetera. Come mi devo comportare? Secondo voi meritate di venire in nazionale? E tutti mi hanno detto no. Quindi lì non ho bisogno del giudice, non ho bisogno del giudice, perché è un nostro comportamento, un nostro modo di essere. E quindi Prandelli, giudice monocratico, che in questo caso ha detto invece, vabbè, guardate, riguardate Chiellini viene. C'è un altro Prandelli però, aspetta, traffico un attimo, prima facciamo sentire il Prandelli precedente, 3 marzo di quest'anno. Il codice etico è un regolamento nostro, soprattutto la partita della domenica, la partita dove dopo c'è una convocazione. E guardando negli occhi i miei calciatori ho detto, in quella partita sono io il giudice, non devo aspettare nessun tipo di prove, niente, sono io che guardo tutte le partite, e se qualcheduno di voi fa un gesto che secondo me non è in linea con i nostri comportamenti, non viene. Io faccio questo perché voglio arrivare ai mondiali e non giocare in 10. Io voglio arrivare ai mondiali che dobbiamo sopportare tutti il peso di questa responsabilità, ma non dobbiamo fare gesti sconsiderati, punto. Tutti convocati. Questa frase sul codice etico che diventi un dogma è una stupidaggine, perché per un fallo non rinuncia a uno dei difensori importanti della nazionale, a meno che non ti vuoi suicidare. Ha ragione Mughini, caro certo. Pierluigi Pardo, ha ragione Mughini. Ma certo, intanto vi segnalo che Ciccio Ordine mi ha appena mandato un messaggio, è convocabile, quindi... È convocabile, sì, benissimo. Qua è bella la radio in diretta. Fantastico. Quindi, volendo lo convochiamo subito. Lo convochiamo, guarda, adesso abbiamo un appuntamento con sì. il professor Sorrentino, che poi deve scappare. Ah, certo, e poi certo. Chiameremo, pertanto più opinioni, più siamo, più ci divertiamo. No, ma aveva una pubalgia, però poi l'ha risolta, pare, quindi ha fatto il provino, l'ha superata, quindi è convocabile. No, a parte le battute, ha ragione Mughini, ma certo ha ragione Mughini, ma Chiellini va portato al mondiale, ma non ci sono discussioni. Il problema è sempre il solito, che se Prandelli, al quale io riconosco tanti meriti dal punto di vista culturale, di cultura sportiva, non si fosse incartato questa cosa del codice etico, si evitava, capito, questa evidente disparità di trattamento, evidente, perché non ci prendiamo in giro. Ma perché gli italiani sono tutti così moralisti, secondo ma te? No, io sono d'accordo con te, infatti è una bella domanda. Io, per me Chiellini deve andare al mondiale, punto, perché è un giocatore che ci serve, non possiamo lasciarlo a casa, su questo non ci sono discussioni. Detto questo, ha fatto un fallo di gioco molto duro, un intervento scorretto, è stato squalificato 3 giornate, è finita lì secondo me. Ma certo, ma pure secondo me, però il 15 aprile, nel famoso stage, Prandelli ha detto da adesso in poi chi sbaglia paga, perché vuol dire che non ha le condizioni psicofisiche per poter venire al mondiale. No, ma è solo è una contraddizione, è una cosa che io fossi in lui mi sarei evitato, perché mi sembra che gli ha creato più casini che altro. Sì. Poi la missione educativa di Prandelli si è esplicitata in questi mesi, in questi anni, tante volte, con una serie di iniziative bellissime. Mi viene in mente Scampia, mi viene in mente i campi confiscati all'Andrangheta, insomma, cioè Prandelli ha portato avanti discorsi belli, alti, dei quali credo tutti dobbiamo ringraziarlo. Questa cosa del codice etico è stata un boomerang, dai. Sì, è stato un boomerang che è diventato molto difficile da gestire, perché comunque lo interpreti, ti presti il fianco alle critiche. Ad esempio, io resto convinto del fatto, l'ho detto molte volte, che non avrei escluso dall'applicazione del codice etico anche la storia di Destro. Sono contrasti di gioco, magari duri, certamente oltre il limite della liceità, ma si sta giocando a pallone, non siamo a teatro, stiamo giocando, e ai mondiali si giocherà con grande agonismo. D'altra parte, tu ti ricordi, allora, Leonardo non è mai stato in campo un giocatore scorretto, no? Lo sappiamo tutti, è stato l'emblema della correttezza, un uomo di grande intelligenza, ma inutile stare a ricordare, giocatore tecnico, ai mondiali degli Stati Uniti piantò, ti ricordi, quella gomitata terrificante in faccia a un giocatore degli Stati Uniti stesso, se non ricordo male, e doveva essere un quarto di finale, e poi andò a ottavo di finale e poi andò avanti per la sua strada vincendo il campionato del mondo con il Brasile. Dunque bisogna fare i bravi, bisogna comportarsi bene, eccetera, eccetera, eccetera, ma sono giocatori, sono atleti, sono agonisti, sono cose che possono succedere. Codice etico o non codice etico? C'è un altro elemento, secondo me, che è lo spirito del gioco, nel senso che, per dirti, ieri sera l'abbiamo discusso anche a Tiki Taka, Roma e Juve potevano fare una partita un po' più soft, no? A 8 giorni dai fatti di via di Tor di Quinto, in una situazione di animi esasperati, con le polemiche che c'erano state, una partita che essenzialmente era amichevole e che non serviva a nessuno per la classifica. Però alla fine, poi, la domanda vera è: come lo onori il gioco del calcio? Lo onori cercando di fare i bravi in un amichevole, o lo onori in una sfida comunque fra rivali importanti, fra la prima e la seconda del campionato, giocando a pallone anche in maniera agonisticamente forte? Questa è la vera domanda, no? È come quando c'è il famoso dibattito sulle goleade, bisogna fermarsi a un certo punto perché umili l'avversario, e io la risposta non ce l'ho. Lo spirito del gioco qual è? Per me lo spirito del gioco è quello di giocare fino alla fine, vincere 9-0, sì, sì, per regalare spettacolo ai tuoi tifosi, sì, e sì, perché il gioco anche è quello. Anche per evidenziare i limiti degli avversari, ma eventualmente per aiutarli a crescere, perché anche questa ad esempio è una chiave di lettura che arriva dal rugby, dagli sport americani. Certo. Tu giochi alla morte per rispetto agli avversari. Questo Andrea Sorrentino, eccolo qui, l'ho evocato, c'è. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti, eccomi qua. Allora, vai col codice etico. Qual è la tua posizione? Io e Pardo siamo sulla stessa linea, cioè, sì, ma non infatti, scherziamo. Il codice etico è un codice etico alla matriciana. Alla matriciana. O allo zafferano o alla norma, così copriamo tutte le zone. No, vabbè. A Pardo piace sempre a cacio e pepe, eh? Io per la norma ho una cosa, predilezione. Con la bella zanzara fritta, il pomodoro. No, ti dico una cosa, sono in cosetti Piazza Duomo, non ho ancora pranzato, però lo zafferano arriva terzo, staccato, chiedo con amicizia per gli amici milanesi, però fra queste tre arriva terzo. La norma forse secondo me batte addirittura la matrice, non lo so. Apriamo il televoto, via il televoto, via. Era per la norma, dire che tanta roba, purtroppo, eh? Come molte leggi di questa disgraziatissima nazione, il codice etico è una di quelle cose che si può poi modificare e modellare a seconda delle proprie esigenze, purtroppo, ed è il grande errore etico dal certo punto di vista di Cesare Prandelli nella sua gestione. Per me il codice etico è ufficialmente una barzelletta da 2 anni, da quando alla vigilia degli europei, mentre montava lo scandalo delle scommesse, Criscito e Bonucci indagati, Criscito rimane a casa, Bonucci chissà perché no. E lì capimmo che c'era qualcosa che non andava. Si disse perché Criscito aveva avuto una perquisizione a casa, sì, Bonucci e Bonucci no, certo, era però magari Criscito era sostituibile e Bonucci no, infatti è chiaramente quello. Ma scusa, d'altra parte, ma se Prandelli, CT della mia nazionale, lascia a casa Chiellini, che è un giocatore importante per la nostra nazionale, o un altro giocatore importante, o lascia fuori Destro, che ne so io, va là e perdiamo e usciamo, non ha fatto bene il suo lavoro. Altro che codice etico. Non allena la parrocchia. L'ha inserito lui il codice etico come, sì, diciamo così, norma edificante per cercare di contrastare la mancanza di etica nella Serie A. L'ha inserito lui. Però noi sappiamo tutti sulla nostra pelle che essere totalmente etici nei comportamenti di tutti i giorni comporta un tale sforzo di autodisciplina, una tale spietatezza con se stessi che a volte non si è capace di essere etici fino in fondo. E Prandelli ovviamente non può essere etico fino in fondo con una nazionale che già va al mondiale, secondo me, come decima, dodicesima forza forse a livello tecnico, perché abbiamo una squadra veramente di livello internazionale scarsissimo. Se si mette pure ad applicare il codice etico con Chiellini si toglie un terzo della difesa titolare. Ma soprattutto, ragazzi, ma il codice etico non lo puoi applicare sul campo, nel senso che a meno di situazioni assurde, di gente che blocca, come diciamo, bravo, Roma, bravo, no? Bravo. Per cui se sei nelle mani di un pazzo che improvvisamente appunto dà di matto regolarmente, allora lì ci può essere un discorso di codice etico, ci può essere anche un discorso di opportunità, che è il discorso che ha fatto Prandelli. Abbiamo bisogno di gente che sappia controllare i nervi, perché ci saranno grandi emozioni in arrivo, abbiamo bisogno di gente sveglia da questo punto di vista. Ma la cosa di Chiellini dell'altro giorno, come la cosa di Destro di 3 settimane fa, sono situazioni di gioco non belle in assoluto, non le mostriamo ai ragazzi come un esempio, ma fanno parte del gioco, ma fanno certo, parte dell'agonismo. Certo. Tu pensa adesso domenica, tu pensa domenica prossima, allora non giochiamo. Cioè, se io fossi un giocatore, piacerebbe, che può andare al mondiale, io domenica prossima avrei paura, no? Cioè, avrei paura di fare un contrasto, un'entrata, una copertura. Certo, sono tutte partite inutili, va, esatto. Vabbè, certo, ok, sono tutte partite inutili. Però insomma, uno del Torino, c'è Immobile squalificato, Cerci, col Torino che deve andare in Europa League, domenica prossima, ah, beh, certo, potrà avere il diritto di giocarsela come se fosse la partita della sua vita. Io da CT della Nazionale vorrei questo, che lui se la giocasse come la partita della sua vita, la utilizzerei come un allenamento psicologico alle grandi sfide. È arrivato Chiambretti, guarda, ho citato Cerci, è arrivato Chiambretti, di qualcosa anche a Radio 24, manda un saluto. Radio 24, ecco, vi seguo sempre, anche quando la radio è spenta, anche quando la radio è spenta. Stasera c'è Supermarket, facciamo proprio la marchetta della marchetta, cioè proprio anche per strada facciamo pubblicità. Stasera è incredibile, l'uomo sandwich questo. Sì, su Italia 1, una rete spenta da quando c'è Tikitaka. Ecco, come è andata ieri sera? Bene, sono contento per te. Bravo Pardo. Grazie, arrivederci. Grazie Chiambretti. Volevo lasciare la chiosa ad Andrea Sorrettino. Con Chiambretti ho perso il filo. Che stavamo dicendo, Andrea? Volevo soltanto ricordare che lo scorso anno Osvaldo non fu portato in Brasile perché non era andato sul palco di una tale premiazione, di una coppa, di cos'era. Anche perché aveva twittato contro Andrea Zoli, ti ricordi? Ecco, contro Andrea Zoli, e per questo non fu portato alla conferenza SCAP. Forse perché magari aveva una presenza un po' ingombrante, faceva un po' ombra magari agli attaccanti titolari. Cioè, ormai i pensierati vengono tutti, perché quando le regole vengono interpretate secondo proprio comodo, lasci spazio a tantissime malignità. Poi ricordiamo sempre che tutto nella vita dipende dall'avere una buona o una cattiva stampa, e per i personaggi pubblici è senz'altro così. Quindi per tutti, ad esempio, Blatter è Belzebù e Platini è un dirigente illuminato, oppure Guardiola è un santo che sfiora la perfezione e Mourinho è un essere indegno, perché poi la stampa crea i diavoli e gli angeli. Sì. La stampa in Italia ha creato un personaggio, Cesare Prandelli, senza macchia, ma dato che è un uomo fallibile come Cerci, anche lui fa le sue fesserie, il codice etico nella è un uomo, secondo me. È un uomo che ha fatto delle cose, secondo me, indiscutibili dal punto di vista della cultura sportiva in questi anni, certo, e dei quali dobbiamo ringraziarlo. E quello che mi verrebbe da dirgli è che non abbiamo bisogno di stravincere, cioè sappiamo benissimo che è molto importante andare a giocare sui campi confiscati all'Andrangheta, che è molto importante lanciare messaggi, ma poi alla fine noi vogliamo che questa nazionale anche vinca, perché Pierluigi ha sempre presentato una nazionale elegante, una nazionale che si è comportata bene anche dal punto di vista agonistico, del gioco, della signorilità su tutti i campi. Non ci sono stati particolari episodi. Dunque, Cesare, basta. Siamo contenti. Non facciamoci del male, andiamo a vincere. Ecco. Andrea, grazie. A voi, bacio, ciao Andrea Sorrentino, ci fermiamo per la borsa, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde. Ti dico subito, Pardo, che la maggior parte di coloro che scrivono ovviamente non sono d'accordo con noi. Tra un po' cominceremo anche però a parlare con gli ascoltatori. Questa frase sul codice etico che diventi un dogma è una stupidaggine, perché per un fallo non rinuncia a uno dei difensori importanti della nazionale, a meno che non ti vuoi suicidare. Tutti convocati. Eventualmente potrei dubitare della tenuta mentale sotto pressione di chi su Twitter, come oggi Rajan Angolan, bega con un tifoso che scrive sempre attraverso benedetto Twitter: è capace a menare solo le donne, che schifezza, risposta in Angolan, vieni a trovarmi. E poi da lì degenera: non l'hai presa proprio bene, prova con il Vagisil e quell'altro, se vuoi te lo posso dare bene ma servirebbe qualcos'altro per te. Però insomma, io potrei dubitare della tenuta mentale più che di chi ha contrasti di gioco anche sopra le righe di chi fa ste robe. Il meccanismo è molto semplice. Twitter è una cosa abbastanza recente, secondo me ancora molti non hanno capito. La provocazione c'è su Twitter, tu non puoi rispondere a chi ti provoca, a meno che non ci sia una motivazione chiara, precisa, una cosa che non si è capita, un dubbio da chiarire, e sicuramente se sei un personaggio pubblico questo dubbio, oltre a quello lì, ce l'hanno altri 20. E allora dici una cosa, ma se ti metti a rispondere a uno che ti insulta, sì, e che ti dice chiaro, Bardo Ciccione, che io vuoi dire? C'è ragione, non lo preciso. Ma no, voglio dirti, anche perché molto spesso quello che succede è che uno magari ti insulta, tu gli rispondi con garbo e vedi che dopo un secondo ma sicuro, sicuro, il tuo tweet ai preferiti e però Pierluigi, se diciamo voglio essere sicuro della tenuta mentale dei miei giocatori, ecco, di uno che si mette a questionare su Twitter con uno sconosciuto, ebbene questo dubbio può venirmi. Sì, però è una roba talmente virtuale, ovviamente il discorso borderline virtuale, non tale virtuale, certamente il discorso borderline è volutamente forzato, però questo è il discorso, cioè nel senso, io della tenuta agonistica di Chiellini, pur giocatore molto fisico, qualche volta sopra le righe, spesso scomposto nei suoi interventi, ebbene sulla tenuta agonistica di Chiellini non c'è nessuno che non metta la mano sul fuoco, perché lo conosciamo, giocatore di enorme esperienza internazionale. Una cosa impopolare, l'altro giorno c'è stata la gomitata, ma Chiellini è questo qui. Ma non lo dico in senso negativo, lo dico tra l'altro, insomma, abbiamo un ottimo rapporto. Cioè, una delle qualità di Chiellini è di essere un giocatore molto fisico, qualche volta anche un po' provocatorio. Poi l'altro giorno, diciamo la verità, Totti e Chiellini se ne sono date reciprocamente. Insomma, è stato un duello fisico fra due che si stavano sulle palle, e quello è il calcio, voglio dire. Insomma, io non ho visto uno buono e l'altro cattivo completamente. Ho visto due giocatori che se ne sono dati, perché in quel momento, secondo me, tutti e due si sentivano paladini dei rispettivi popoli. E noi non vediamo gli allenamenti, dove pure se ne danno di santa ragione all'oscuro delle telecamere, tant'è, perché quello è il calcio. Lorenzo Milano, rimane, buongiorno. Rimane solo l'incongruenza di destro di Osvaldo l'anno scorso, cioè di altre infatti è così, infatti secondo me il problema rischia di diventare proprio Prandelli che usa due pesi e due misure, perché questa è la cosa secondo me più fastidiosa in tutta questa vicenda. Lorenzo, buongiorno. Domani è finita, se Dio vuole. Lorenzo, ciao. Secondo me state sbagliando, sì, perché allora Chiellini lo conosciamo, che è uno che mena come un carrettiere ogni volta, poi dopo fa sempre l'amicone, sorride, ma questo è lui. La gomitata è stata eccessiva, e soprattutto la risposta è Chiellini dopo sbagliato. Il codice etico va applicato, ma quello che deve andare via è Prandelli. E dica, ha sbagliato, ci ha preso per i fondelli, ha detto una stronzata, scusatemi il termine, che è quella del codice etico, adesso va via lui, perché ci sta prendendo in giro. Fine. Cioè va via lui adesso prima dei mondiali? I mondiali si leva dai piedi, basta. Come prima o dopo? Dopo, eh no, allora se deve, eh no, Lorenzo, non è troppo comodo. Allora, se vogliamo darci le martellate sulle dita, allora lo facciamo subito. Ma tanto, ascolta, i mondiali andiamo a fare le figure da cioccolatai, perché voglio dire, parliamoci chiaro, è una squadra. Se siamo ancora messo il tifoso a Fiorentina, se siamo ancora a aspettare Rossi, siamo veramente alla frutta. Siamo una squadra da serie B mondiale, non valiamo niente, meglio che siamo a casa. Beh, intanto siamo vice campioni d'Europa, che saremo la serie B a livello mondiale, in Europa siamo medaglia d'argento e ce la teniamo in linea di massima. Ma sì, poi no, sono, ragazzi, tutti i discorsi che vedremo. Posso dire che giudicare Prandelli per queste cose significa fare un torto alla nostra intelligenza. Stiamo parlando di un allenatore che ha impostato molto bene il lavoro, che ci ha portato a un'insperata medaglia d'argento a Kiev, che ha fatto giocare la nazionale bene, che sicuramente non c'è da nascondersi questa cosa. Ultimamente questa squadra ha avuto problemi, cioè non riesce a battere le grandi, quindi qualche campanello d'allarme sicuramente è arrivato, però questo è Prandelli, va giudicato per quello che ha fatto in campo. Poi c'è tutta la parte, diciamo, da guru, da pensatore, da politico di Prandelli, sulla quale secondo me ha fatto molte cose buone, e questo è un errore. Questo è un errore perché era una cosa che nasceva anche bene, voleva dare un messaggio di un certo tipo, ma con la quale si è incartato un sacco di volte. Non è la prima, forse sarà l'ultima, perché finirà, ma insomma è successo tante volte, e oggi hai l'esempio più eclatante, che è un giocatore irrinunciabile per il mondiale, comunque un giocatore che chiunque in Italia porterebbe fra i 23, e che fai? Gli dici di no? Allora, l'anno scorso con Osvaldo non faresti bene il tuo lavoro, Pierluigi, bene il tuo lavoro. Il suo lavoro è quello di fare CT della nazionale, non il parroco della parrocchia del pallone. Detto questo, l'incongruenza c'è, è clamorosa. È un mese fa, perché un mese fa ha detto da adesso in poi chi sbaglia paga? Cioè, sono proprio ingenuità. Ma perché devi dire una cosa del genere, che verrà usata contro l'idea alla prima occasione? Anche perché, no, anche perché non è vero che verba volant, verba vengono registrate e noi le abbiamo riascoltate anche prima. Si cancella niente. Si cancella niente. Pier Francesco da Parma. Ben ritrovati. A lei. Ben ritrovati. Niente, sono d'accordo. Quello che il signore che ha telefonato prima, obiettivamente, non bisogna dargli retta, perché noi italiani anche nel calcio non saremmo i primi, ma non siamo secondi a nessuno. Questo, aperto e chiuso una parentesi. Per quanto riguarda Prandelli ha detto una cosa, perché era stato, secondo me era stato spinto anche da voi media, dico da voi in generale, per l'amor di Dio. Dico i giornalisti in generale, non sto parlando né di lei né di Paolo. No, lo so, ma su cosa? Ecco, sulla faccenda del codice etico. Devono ricordarsi, dobbiamo ricordarsi, che il gioco del calcio non è danza classica. Quindi, se viene fatto un fallo in campo, che sia più pesante o meno pesante, obiettivamente può capitare. Io per codice etico intendo questo, che un giocatore non faccia delle robe che non van bene, ovvero sia sostanze stupefacenti, rubare, violentare, questo è il codice etico. Sì, anche il codice penale volevo. Sì, anche codice penale, bravissimo. Mi lasci finire però il mio ragionamento, che è banale, però è questo. Tutti lo pensano, però magari nessuno ha il coraggio di dire. Quello che fa in campo, meno che non venga in campo con un coltello, per l'amor di Dio, intendiamoci, quello che succede in campo, il calcio, il calcione, il pugno, purtroppo fa parte del gioco. Quindi se in campo rende, io sono milanista e non juventino, quindi Chiellini ha sbracciato, ha dato una gomitata un po' più forte del solito, ma non è certo da lasciare a casa. Uno come Chiellini e lo stesso Cassano, lo stesso Ballotelli, adesso basta con i codici etici. Se si comportano bene in campo, nel vero senso della che giocano bene, che fanno il loro mestiere da calciatori, devono essere convocati. Vengono valutati per quello che fanno in campo. Poi ci sono delle, secondo me, delle linee di confine, certamente, ma queste linee di confine non sono state superate in alcun modo in tali episodi. Allora, tu mi dicevi, Pierluigi, ieri che da Zanetti una macchina la compreresti, vero? Beh, insomma, è il testimonial ideale di una... È il testimone ideale di una marca di assicurazioni, di una macchina molto sicura, perché ti presento un ascoltatore che l'ha fatto davvero, cioè, ha comprato la macchina di Zanetti. Come va? Flavio. Buongiorno a tutti. Come va la macchina di Zanetti? Va benissimo. Ma che faceva? Io non va dentro, che hai trovato? Dopo 7 anni posso dire che veramente mi sono trovato bene. Soprattutto c'è stato un ottimo rapporto qualità-prezzo per il valore della macchina, che avevo solo 1 anno e mezzo, e in ottime condizioni, ma non avevo dubbio, anche vedendo la persona a quale andavo a acquistarla. Senti, me la vendi? No, non perché di Zanetti, ho bisogno di una macchina. Ma sinceramente, guarda, io non sono interista, io ho cuore viola e granata, una cosa un po' strana, ho sempre avuto nel cuore queste due squadre. E gemellate. Quel giorno che ho detto, con tutte le persone che dicevano ma la macchina di Zanetti, andavo a fare il tagliando in questa concessionaria, diciamo, tedesca, e tutti a dire, caspita, ma che Zanetti, ma si può avere un autografo? Cioè, è pazzesco come il calcio possa muovere certi interessi. Senti, ma che ci hai trovato nella macchina di Zanetti? Allora, la cosa particolare è che è un esemplare unico, immatricolato in Europa, l'unico, perché è stato importato dall'America. Sì. Infatti il tachigrafo era in miglia, e io poi ho sostituito perché sinceramente ero un po' in difficoltà. Sì. Invece è rimasto ancora le manopole della temperatura sono in grado di fare night. E poi la cosa carina è che il navigatore è pieno di tutti gli indirizzi degli stadi, sono memorizzati tutti gli stadi del nord Italia, per lo stadio Zini di Cremona, magari stadi non proprio così come San Siro, Comunale di Torino, però Garilli di Parma, di Piacenza, no, di Firenze mi sembra che era anche. Hai capito? Vabbè, Flavio, senti, ripensaci, se me la vendi io la compro, cioè, ho bisogno della allora macchina. Allora vedrò di... Guarda, che tra l'altro ho 65.000 chilometri dopo ormai la macchina ha 9 anni, quindi sì, usata pochissimo. Vabbè, perché va bene, perché no? Benzina, per, ma non perfetto, è proprio perché Zanetti per gli spostamenti sopra i 100 chilometri va a piedi, va di corsa. Cioè, non è che prende la macchina, una persona normale prenderebbe la macchina, dice dove va a Treviso, va con 500 chilometri, vabbè, la prendiamo la macchina, insomma. Lui va a piedi. Vabbè, comunque siamo d'accordo così, poi ti lascio il numero, ci sentiamo. È stata una cosa che veramente non potevo farne a meno di mandarmi a me ieri mentre fatto, vi ascoltavo, fatto perché sentir dire cioè, qualcuno preso la macchina usata e mi è venuto proprio spontaneo. Ma invece il Bari non ce lo compriamo, anzi la Bari, come adesso dicono. Lo scopriamo subito, la Bari ce lo compriamo. Dai, abbiamo contatti avanzati, abbiamo contatti avanzatissimi. Guarda, senti dopo il traffico, senti un po', senti che arriva. C'è il traffico! Come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Sorella di Beyoncé, Solange Knowles, entra nel codice etico perché ha preso a calci Jay-Z, suo cognato, in un ascensore dopo un evento mondano a New York, quindi non va ai mondiali, è ufficiale. Pardo? Sì. Allora, compriamo il Bari, è ufficiale, anche questo. Ma io sì, per fare dividendi ovviamente pagati in natura, pesce crudo, e per quanto riguarda il resto siamo a posto, la squadra, adesso non ci capisco niente, troviamo uno bravo, io ti ho detto 2.000 euro consulare. Sì. Sottoscrizione popolare, simbolico, l'abbiamo lanciata ieri, li posso dare, tutti convocati in lizza per comprare il Bari, 800 24 00 24, chiamateci. Intanto il capitano ce l'abbiamo già al telefono, Marino Defendi. Ciao Marino. Buongiorno a tutti. Ciao. Ciao. Hai visto Pierluigi, hai visto ieri sui social questa foto meravigliosa? Stupenda. Meravigliosa, con i cartelli scritti sul cartone marroncino a penna, comprateci, outlet, saldi. Con tutti i giocatori del Bari, beh, direi se c'è un uso meraviglioso del social network, Twitter, Facebook, quello che volete, è stato questo. Marino, vi compra qualcuno? Che notizie ci sono? Lo speriamo proprio, lo speriamo tanto. Anche perché avete riacceso il fuoco in città nelle ultime settimane inseguite i playoff, lo stadio è tornato pieno, c'è un entusiasmo pazzesco. Mancano solo 2 milioni di maledetti euro, che non sono poi una gran cifra. Io e Pardo, la nostra parte la facciamo, gli ascoltatori lo speriamo, e voi anche, perché ci sono i playoff da inseguire. Immaginati playoff per la Serie A. No, noi ce la metteremo tutta sicuramente, come abbiamo sempre fatto. Pierluigi, ma io devo dire, appunto, faccio i complimenti, sapete che se c'è una cosa che mi piace è quando i calciatori decidono di non prendersi sul serio e smentiscono il luogo comune che qualcuno dice che siano così delle persone senza fantasia, no? Sai, se ne sentono di cose, no? Sempre che rispondono a frasi fatte. Questa cosa di ieri invece è proprio un utilizzo intelligente dei social network ed è una cosa divertente. Quindi complimenti, e solo per questo il Bari meriterebbe un compratore. Poi lo merita per i 30.000 che porta allo stadio in questo momento, perché veramente la passione si è riaccesa. E io che vi devo dire? Io veramente non lo so, facciamo la sottoscrizione. Adesso Genta deve comprarsi una macchina, non ti comprare la macchina, fai come Zanetti, vai a piedi. Ma non c'è problema, rinuncio volentieri alla macchina per entrare nella cordata, la signora cordata che rileverà il. No, però io la cosa che volevo chiedere è, mi sembra che ci sia stato un risveglio improvviso della squadra e del pubblico, appena insomma si è capito che l'epoca Matarrese era finita e che si andava verso un futuro luminoso, no, questo ci auguriamo di sì, ma insomma tutto da vedere con delle possibilità. Mi sembra che i tifosi siano tornati allo stadio, ma soprattutto che la squadra abbia reagito. Mi spieghi un po' bene che cosa è successo? Oh, sicuramente il fatto del fallimento ci ha dato una marcia in più. Dato una marcia in più e uno stimolo in più per cercare di far vedere. Dopo, io praticamente dall'inizio dell'anno che comunque ho sempre dichiarato che questa squadra, i risultati che otteneva non erano suoi, perché io ho sempre avuto fiducia comunque di tutti i ragazzi, dei mister, di tutti, e adesso comunque i risultati si vedono. Poi vuoi o non vuoi, ho sempre anche detto che avere comunque 30.000 persone che ti guardano e che ti incitano, sono veramente il 12° uomo in più. Sembrano frasi fatte, ma è effettivamente così. Senti, ma questa, per chiudere, Marino, poi ti lasciamo andare, so che oggi, ma non giochi oggi a Carpi, no? No, praticamente adesso sto andando ad allenarmi, che ho fatto le cure a Barletta e adesso mando allo stadio. Liste infortunati, ma queste difficoltà che sta incontrando la componente della società vi disturba? No, allora forse anche il nostro punto di forza, che nel senso noi non ci siamo mai preoccupati molto di questa cosa, nel senso che comunque abbiamo sempre cercato di concentrarsi solo sul campo, quindi anzi sicuramente la trasformiamo in un'arma in più per cercare di far bene. Grande Marino, complimenti, in bocca al lupo. Grazie a voi. Complimenti, in bocca al lupo. Noi siamo pronti, rilanciamo la sottoscrizione, siamo pronti a farci vivi alla prossima asta. Manderemo un emissario. Chi mandiamo? Mandiamo Piantanida. Piantanida andrà a rappresentarci alla prossima asta fallimentare. Io manderei anche, non so, il presidente, qualcuno, non so. C'è qualcuno con i soldi, ci dovrebbe rispettare Piantanida. Ci andiamo le tre, capito? Belli, bravi, simpatici. Adesso ci penso. Mandiamo i Cruciani, il signor Cruciani. No, Cruciani, no, viene fuori un casino che non ci danno neanche una maglietta. Ciao Pierluigi, sentiamo domani. Ciao. Allora, adesso è il momento in chiusura della prima ora di gioco, poi ne avremo una seconda come tutti i giorni. È il momento delle suggestioni per chi ama scommettere. Quote e pronostici. Torna in Italia il Giro con la quarta tappa prevista per oggi, 112 km di pianura da Giovinazzo a Bari, tappa per velocisti difficili, dunque le fughe da lontano. Queste le quote SNAI per la tappa odierna. Favoritissimo è Marcel Kittel, tedesco della Giant Shimano, due volte già vincitore in questo Giro, quotato 1,50. Interessanti le quote di Puhanni, francese, quotato 9, e di Elia Viviani, il nostro corridore, quotato 9 anch'egli. Ben Swift invece del Team Sky è pagato 15, mentre Alessandro Petacchi è pagato 20. Questa sera scende in campo per il suo ultimo turno infrasettimanale la Serie B, che nella 39esima giornata regala sfide molto importanti in chiave playoff. La più importante è certamente quella tra Cesena ed Empoli, con i toscani secondi e a un passo dalla promozione diretta in Serie A, mentre i romagnoli sono quarti, quindi la vittoria del Cesena l'1 è pagato 3, l'X è pagato a 2,85, la vittoria dei toscani, cioè il 2, è pagato 2,65. Altra gara chiave è quella dell'uscita di Crotone, tra Crotone e Latina, l'1 è pagato 2,40, l'X 2,90, il 2, 3,30. Questa era l'ultima quota SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Convocati. 800 24 00 24. Chi sta parlando? Io, caro Mario. Secondo me non capisci di calcio. Bravo, esattamente. E me ne vanto. 800 24 00 24 è il numero verde. Intervenite per indossare, al migliore in campo soltanto, una maglietta griffata a tutti i convocati. C'è poi, lo ricordo, l'altra nostra iniziativa, trovate tutto sul sito radio24.it, inviateci un file audio della durata di un minutino, quindi una decina di righe se lo scrivete, su un argomento della settimana, che è Conte sì o no e perché, cioè deve rimanere alla Juventus, deve lasciare la Juventus, e perché, tanto poi lo scopriamo e ne parliamo ovviamente in questi giorni. Il migliore tra questi file audio avrà l'autore di questi file audio verrà a ritirare la maglia di tutti i convocati firmata da un grande campione e lo farà qui da noi partecipando al programma. Allora, Luca da Bergamo, grazie dell'attesa. Eccomi, grazie. Ciao. Allora, io volevo raccontare un episodio. Premetto che vorrei sapere, le convocazioni di Tandelli sono arrivate? Alle 19. Ah, allora forse vi do una news. Comunque, dimmi. Svegliamo. Allora, io questa mattina per lavoro in provincia di Bergamo ero presso un don, nel senso che io lavoro con la categoria clericale, diciamo così. Sì. E questo don era in compagnia di un ragazzo, insomma, che io continuavo a guardare e dicevo, ma cavolo, io questo l'ho visto, io questo lo conosco, io questo l'ho visto, io so chi è, però non mi veniva. Lui ovviamente era accompagnato dalla sua ragazza e tutto il resto ed era stra felice e diceva a questo mio cliente, diceva, guarda, io sono contentissimo perché domenica ovviamente ci siamo salvati, quindi era importante, ma sono stra felice, ma camminava a un metro da terra praticamente perché mi ha convocato Tandelli e lui era il mitico Michael Agazzi. Agazzi? Esatto. Infatti io continuavo a dire, ma io questo lo conosco, io questo l'ho già visto, solo che non riuscivo a venirne uno. Poi quando lui si è allontanato, questo mio cliente dice, ma sai chi è quello? L'ho già visto, dimmi chi è, ragazzi, io dico, ah, ecco, e mi sembrava. E per dirti, per testimoniarti quanto era felice di questa cosa, ma veramente non stava nella pelle, a parte che magari sarà stata anche una cosa molto... Pronto? Sì, ecco, no, sto ascoltando con attenzione, anche perché... A parte che magari era una cosa per lui, una sorpresa, perché sì, almeno tra i nomi, anche io ci riflettevo sopra, dicevo, tra i nomi che c'erano in giro, il suo. Sì, circolava anche il suo, però non... è meritato, io credo, perché sicuramente meritato, perché voglio dire, Tandelli, non penso. Però ecco, e lui era... E tanto è vero che l'ha considerato, vedi, parlando appunto nell'ambito, diceva che gli succedono i miracoli anche. No, grande, grazie davvero Luca, anzi ti assumiamo seduta stante come corrispondente da Bergamo. Agazzi dunque farà parte di questa lista dei 30, sappiamo, Buffon, Scuffet sono e Perin sono i tre principali indiziati per il mondiale. Vabbè, cioè, stare Buffon, si tratta di capire chi sarà il secondo o terzo portiere, e ci sarà in lista anche Agazzi. Lista dei 30 alle 19. Resta che aspettare e parlare con Don Filippo Maria Ricci dalla Spagna, per noi la Gazzetta dello Sport. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Già che siamo in tema di convocati, ma Caleón escluso la nazionale spagnola, a me sorprende. Però a me no, cioè? Hai ragione tu, però qui non, insomma, non gode di tutta questa, ha fatto questo grandissimo campionato in Italia. Però qua in Spagna non è così, non ha lo stesso cartello, mettiamola così. Vabbè, ma è interessante, cioè, perché avranno anche lì la televisione, no? Sì, un po' come Sabella, no? Dice, bravo, non, esatto, non c'ha televisione. Non c'ha, sì, la televisione ce l'hanno, però non è bastato. Vuol dire, è un settore che c'è una enorme abbondanza, no? per la Spagna, quello diciamo di Callejón. E detto questo, io, insomma, non mi sorprende, perché ha un così, appunto, non è considerato. Non è considerato, nonostante sia esploso definitivamente in questa stagione. Sì, però è il primo anno. Questo, insomma, dice parecchio anche un po' di quella che è la situazione del nostro campionato. Cioè, di come viene, appunto, considerato. Cioè, praticamente possiamo fare un parallelo con i 50 gol in due stagioni di Pellè in Olanda. Insomma, è un parallelo, ovviamente, diciamo, disonorevole per noi, perché il campionato olandese è sicuramente peggiore del nostro, però sì, anche non ci andiamo lontani, insomma, ecco, diciamo, qua pensano di avere di meglio di Callejón, sì. Probabilmente in Italia, nella nazionale italiana, Callejón sarebbe convocato. Beh, comunque, mentre per la cronaca vi ricordo che al Giro d'Italia non è partito uno dei principali protagonisti di questo inizio, cioè Kitter, che ha vinto due tappe in volata influenza, questa è la ragione. Io voglio parlare con Filippo Maria Ricci del Ciapanò, che esista. Ciapanò è un gioco di carte molto popolare nei bar del nord Italia, soprattutto Ciapanò sul titolo della Lega, perché domenica sera davvero sembravano le comiche. Io stavo guardando tutte le partite, no? In contemporanea, dicevo, ma non è possibile. Il Real Madrid che si suicida, si impicca. Che tra l'altro, se avesse vinto quella partita con quegli altri due risultati, avrebbe potuto avanzare ancora candidatura. Avrebbe dovuto poi chiedere al Barcellona di battere l'Atletico per fargli vincere la Liga, cosa un po' difficile, uno scenario complesso. Sì. Però a parte quella partita, allora, presto detto, questo Ciapanò, le ultime tre partite il Real Madrid ha fatto 2 punti su 9, sì, l'Atletico 4, il Barcellona 5. Sì. Teoricamente erano 3 squadre che dovevano fare 9, 9 e 9, perché insomma per quello che si giocavano. E questo va bene anche per descrivere un po' la Liga, no? Che tutti dicono, ma tanto quelle partite si vincono facile. E invece a me mi torna in mente il grande Simeone, che ancora una volta ci ha azzeccato, quando all'inizio del giorno di ritorno disse: adesso sarà tutto più difficile, perché nel giorno d'andata è più facile fare punti perché le squadre non hanno grandi pressioni. Dice: quando si arriva in fondo tutti devono fare punti e vincere è complicato. E ha ragione, perché voglio dire, il braccino possiamo citarlo per l'Atletico, che non è abituato, ma Real Madrid e Barcellona a questi livelli hanno sempre stravinto, cioè, sì, poi, hanno tutte con vinte. Logiche secondo me diverse, perché ovviamente per il Barcellona è l'obiettivo della stagione a questo punto, mentre il Real Madrid sta preparando a un altro pensiero, e si sta preparando in maniera molto ancellottiana, se me lo consenti. Sì, quindi siamo tra Brodino e Grande Banchetto. Sì. Il Brodino la Coppa del Re, se perde, oppure se vincono la benedetta decima, dopo basta, dopo Ancelotti diciamo rimarrà per sempre nella storia del Real Madrid, e così va bene. Il problema è che tu puoi anche dire che si prepara in maniera ancelottiana, però Carlo l'altro giorno non era molto contento, insomma, fumava. Sì, come fa a essere contento? Perché la figuraccia è stata terrificante, insomma. Per cui questo è stato. Tutto nasce per il Madrid dal pareggio col Valencia. Però ecco, questo è solo interessante, perché comunque in un campionato dove tutti danno per scontato che le grandi vincano sempre, invece andava molto diversamente. Sì. Vuoi per i primi a vincere, vuoi per le necessità personali, comunque chiunque si è impegnato, e questo è stato, sì, ha reso un campionato incredibile. E quelle per varie ragioni sono calate, perché non hanno giocato una buona gara nel Barcellona né Atletico Madrid, dai, rispetto alle ultime Madrid, esibizioni. È chiaro, se tu pensi, l'Atletico Madrid è quello che ovviamente ha più rimpianti, perché è stato a un gol suo o dell'Elche a lungo dalla conquista del titolo. E va bene, allora dici, l'Elche non ti fa il gol, non ti aiuta, però lo devi far tu. E non aver fatto gol al Malaga, cioè non aver segnato il 2-1, è ovviamente un errore che adesso rischiano di pagare caro in questa super finale di sabato alle 6. Sì. Come la vedi tu? Allora io continuo a dire 55-45 all'Atletico, perché ha 2 risultati a disposizione. Però è chiaro che stiamo parlando del Barcellona, che comunque non è, cioè sì, è in crisi, è un disastro, però resta sempre il Barcellona, ha un giocatore come Messi, anche questo, che non va, non funziona, che comunque ha fatto più di 40 gol stagionali, e si gioca quella che è una stagione disperante e disperata, potrebbe alla fine chiudersi con la quinta linea in 6 anni, cosa che in Europa non ha fatto nessuno. Per cui vediamo se riescono a buttare via anche questa occasione. Si sono incontrati 5 volte, 4 pareggi e una vittoria dell'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid avrà la difesa titolare e ha preso solo 2 gol da Neymar in queste 5 partite. Teoricamente con lo 0-0 vincono il titolo. Per me lì sarà. Poi c'è Neymar che non sta bene, ci sono le pressioni della nazionale brasiliana per non farlo giocare, giusto? Esatto, sì, cioè lui sta bene, per me ormai è a posto, da quello anche che ho visto con le sue dichiarazioni. Poi ovviamente al Brasile gli dicono: dai, stai ancora un po' malino, almeno fino a sabato sera. Poi ti giochi il titolo, dai. Lo so, però i brasiliani su questo io a me non ispirano grandissima fiducia in questo senso. Cioè prima viene dall'altra parte, c'è il mondiale in cui tu sei il protagonista, il mondiale a casa sicuro, tua. Ma questa si gioca, qui giochi una finale per lo scudetto, giochi una finale per il titolo, cioè non è amichevole del mercoledì. No, senz'altro, però vediamo, a me mi sembra che lui abbia detto oggi, c'erano dichiarazioni, puoi interpretare in varia maniera, io non l'ho vista in diretta, e poi non so se vengono dal brasiliano o dal portoghese o sono state tradotte, però lui mi sembrava che volesse giocare, come è giusto che sia, però attenzione perché poi anche la presenza di Neymar costringe poi Martino a delle scelte tattiche che finora ha sempre sbagliato. Perché lui ha questi, no, quattro attaccanti, ne deve scegliere tre, i tre centrocampisti ne deve scegliere due. Le ultime due partite di Champions le ha giocate col pentagono, no? Cioè con Neymar, sì. Messi più Fabregas, Iniesta e Xavi, e non ha funzionato. Non benissimo, allora, no. E quindi anche lì cosa bisogna vedere cosa sceglie Martino. Ma salva la panchina in caso di titolo? No. Assolutamente no. No, lui ha già detto che non cambia niente, per lui ha detto è un grande signore, io devo dire, ne esce veramente a testa altissima, probabilmente non un eccezionale allenatore, però grandi attenuanti generiche non, perché comunque questo Barcellona era molto complicato, un Barcellona scosso e poi con una dirigenza pessima, e non ha fatto mai polemica, non si è mai lamentato, anche adesso questi gli sono andati a fare la riunione con Luis Enrique così sotto il naso, lui ha detto non ci sono problemi, tutto a posto, e questo devo dire gli fa onore, in un calcio spesso isterico dove ci si lamenta anche per gli orari delle partite, certo. Lui avrà dei motivi seri per lamentarsi, non l'ha fatto, lascerà serenamente la panca a Luis Enrique, a parte degli amici, che va bene così, lui poi, il Barcellona comunque è complicato, mi ricorda un po' l'anno di Robson viene veramente, no, dopo Cruyff, sì. E gliene fanno, lo fanno morire, è chiaro, lui lì non vince la Liga perché la vince nel capello, lui c'è Ronaldo, però mi sembra che vince la Coppa UEFA, la Coppa delle Coppe e la Coppa del Re, però poi alla fine se ne va perché comunque è difficile stare a Barcellona. Certamente, quindi io... nel Tata non lo vedo, detto, magari non sarà il più grande degli allenatori, però filosofo, avventura finita, la prende come è giusto pigliarla. Filippo, ti ringrazio. A voi, ciao. Un abbraccio, ciao. Filippo Maria Ricci. Torno a parlare con gli ascoltatori invece, un grande piacere, Alessandro da Torino, Giorgio da Roma, 800240024, numero verde. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi. Io parlo di un argomento molto, molto più terra terra, la recuperazione del Bologna. Sì. Ma, ritengo terra che terra Bologna... rispetto a cosa, mi perdoni? No, rispetto agli altri temi di vittoria di Champions League o Coppa Europea, dove il Bologna non accede più dal 1821. Non si butti giù, è certamente meno terra terra questo argomento rispetto alla storia di gomitate, eccetera, eccetera. Anche tenendo presente che il Bologna ha meritato pienamente la retrocessione, ancora più se fosse del Livorno. È una squadra che era arrivata al capolinea già dall'inizio della stagione, con riferimenti tecnici molto, molto bassi, al di là di Diamanti, ma che è stato sacrificato per pagare gli stipendi. Sì. Trovo vergognoso, io non vivo a Bologna, sono tifoso di Bologna da sempre, trovo vergognosa la contestazione ai giocatori, ai quali non si può recriminare il fatto di essersi impegnati. Il loro valore è quello. Sì. Quindi, è un po' come di una squadra di Serie D che va a giocare contro la Juventus, è chiaro che perde, ma si impegnano. No, ma guardi, io sull'impegno metto sempre la mano sul fuoco, quasi sempre. La contestazione ai giocatori è una moda tutta italiana, una mania di protagonismo di certi ultra, eccetera. È un capitolo a parte, è un capitolo che viviamo costantemente, è un capitolo che non mi sorprende, ma sono d'accordo con lei. Cioè il Bologna era una squadra scarsa, era una squadra tra le candidate alla retrocessione, secondo me ha fatto due errori capitali. Il primo è stato quello di sostituire Pioli, che comunque quell'ambiente lo conosce bene, aveva la fiducia dei giocatori. Poteva ancora, nonostante Ballardini sia un eccellente tecnico, però abbiamo visto la storia con Di Francesco, con cui abbiamo parlato ieri, con Corini, con cui abbiamo parlato ieri, insomma in situazioni di difficoltà forse è meglio andare avanti con chi già conosce le dinamiche, i meccanismi, i giocatori, i limiti dei giocatori. Quindi un primo errore è stato quello, e il secondo capitale è quello di vendere lei dice per pagare gli stipendi va bene, però nel momento in cui vendi l'unico giocatore di grande talento che hai a disposizione, ti autocondanni in maniera quasi matematica alla retrocessione. Grazie Alessandro. Tra l'altro Bologna, leggevo oggi un interessante servizio, un interessante pezzo su un giornale, e insomma, Bologna sta vivendo anni molto bui dopo le vacche grasse, vacche magre a Bologna, non solo per il calcio ma ad esempio anche nel basket, sempre protagoniste, quest'anno particolarmente depresso e deprimente. Giorgio Roma, buongiorno. Buongiorno, intanto dica. Complimenti. Allora, io sono intervenuto un tempo fa, parlavo dell'argomento nazionale, Prandelli eccetera, sono intervenuto un tempo fa, si parlava di Balotelli e dicevo che la federazione che spingeva per avere un giocatore di spicco che poteva essere un riferimento come nazionale, e allora si parlava di Balotelli, il comportarsi eccetera. Io dissi, ma secondo me la federazione, siccome non abbiamo un giocatore di un certo spessore, allora bisogna creare o perlomeno gestire in qualche maniera un giocatore che sia il personaggio, il punto di riferimento. E con Balotelli è andato male. Secondo me il discorso di Prandelli ci potrebbe essere dietro la federazione, nel senso che non abbiamo una nazionale con un nome di spicco, e allora creiamo questo codice per cercare di far calmerare un po' la gente e di tenerli buoni, cercando di trovare magari una persona, qualcuno, o perlomeno, o quantomeno, non abbiamo un numero uno, ma non andiamo lì, sì, però con tutti scarsi. Sì, ho capito, però visto non leviamoci neanche per capriccio, o per non etica, ma per demagogia, giocatori che ci servono. Sa piuttosto, caro Giorgio, io cosa farei? Io chiamerei un nuovo team manager per questa nazionale. Silvio Berlusconi. Un giorno mi piacerebbe incontrarlo e fargli qualche domanda, posso? Per esempio, Mario, noi secondo te andiamo in campo per vincere o per perdere? Mi risponderà, per vincere. E secondo te per vincere dobbiamo fare gol o no? Fare gol. Ah. Chi sta parlando? E per fare gol dobbiamo tirare in porta o no? Dobbiamo tirare in porta. Per tirare in porta dobbiamo stare lontano dalla porta? No, vicino alla porta. E allora perché tu giochi sempre anche nella nostra metà campo? Chi sta parlando? Dubbi. Speriamo che impari. Secondo me non capisci di calcio. Allora siete d'accordo, no? Berlusconi team manager della nazionale, plebiscito popolare o no? 800240024, ditemelo. Stefano da Firenze. Sì, buonasera. Complimenti, mi sembrano dovuti perché è sempre molto interessante. Vorrei ritornare un attimino sull'eventuale convocazione di Chiellini. Secondo il mio punto di vista sarebbe una grossa opportunità per Prandelli non convocarlo, perché riuscirebbe ad acquisire un'ulteriore credibilità sul gruppo che altrimenti è come la cosa che ha sempre portato avanti a parole col gruppo un certo tipo di discorso e poi nell'imminenza manda all'aria tutto. Non so, no Stefano, Stefano, ma lei è sicuro di questo? Perché allora Chiellini è uno dei giocatori storici di questo gruppo, certo. È uno dei leader di questo gruppo. Certo, proprio lei, per questo lei è convinto che Prandelli abbia bisogno di accrescere la sua credibilità su questo gruppo escludendo uno dei senatori? Oppure escludendo uno dei senatori farebbe scontenta una buona parte di questo gruppo? Cioè ripeto, non è il torneo della parrocchia, non è il torneo dei bar, i giocatori sono super professionisti, sanno benissimo come gira il vento, quindi questo è un discorso che possiamo fare, è un discorso che possiamo fare a un gruppo di ragazzini. Allora anche quello bravo oggi lo tengo fuori e tutti gli altri imparano, ma qui stiamo parlando della nazionale italiana di calcio che va a giocare la Coppa del Mondo, c'è una certa differenza, Tutti convocati. Baretti, con un applauso che non è né per me né per voi, ma è quello che i tifosi di Pistoia hanno tributato a un grandissimo uomo del nostro sport, non solo un giocatore di pallacanestro, capitano della nazionale, medaglia d'argento olimpica ad Atene, che dopo i playoff che si prepara ad affrontare con Pistoia saluterà il gruppo e come Zanetti, perché non c'è solo Zanetti, si ritirerà e farà qualcos'altro. Jack Galanda, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao grandissimo Jack, come stai? Ti senti bene, già bene, un pensionato, hai già le pantofole? No, no, assolutamente. Anzi, dicevo, il tono mi sembra un po' troppo... Elegiaco? Sì, no, infatti... Vuoi che chiami Pozzecco? Guarda che chiamo Pozzecco. Guarda che chiamo Pozzecco, No, per carità. Senti Jack, vabbè, un altro anno no, non te la sentivi più, non hai più voglia, non hai più stimoli? No, non è, gli stimoli ci sono sempre, però insomma, a 39 anni penso di aver giocato abbastanza, ho raggiunto le 20 stagioni e diciamo che l'idea che avevo io in inizio stagione era quella di fare quest'ultima stagione per aiutare questo gruppo a crescere. Più che altro nello spogliatoio per tenere la squadra unita, per aiutare insomma un'annata che poteva essere complicata, perché comunque arrivavamo dalla serie inferiore, dovevamo dimostrare chi eravamo e quindi era assolutamente un percorso in salita. L'idea appunto era di cercare di dare il più possibile a questo gruppo, e poi comunque avevo già in mente che avrei smesso. Fisicamente sto bene, ho qualche problema di troppo alle caviglie, però insomma ho deciso così e insomma sono contento della scelta, non perché so di aver vissuto una carriera fantastica. Insomma, è ovvio che ci sono stati momenti bui, momenti insomma i picchi, le vittorie. Sì. E, insomma, anche dopo un'annata potevo smettere, tanti mi hanno detto perché non hai smesso l'anno scorso, hai vinto così, e invece no, insomma mi sono rimesso in gioco già una volta, già più di una volta. Beh, questa era l'ennesima, e insomma ho detto che comunque per noi il raggiungimento dei playoff quest'anno è stato come vincere uno scudetto. Ah, ma non c'è dubbio, è andata strabene, no? Quindi avete messo dietro Varese, di cui tra poco parliamo, che è il tuo passato e anche la città in cui sono convinto, poi magari mi smentisci, che tu abbia vissuto il momento più magico della tua carriera. Venezia, che era una delle della nuova buona borghesia del basket italiano. Avellino, che all'inizio a tutti era accreditata come la grande sorpresa della stagione. Avete lasciato dietro tutte queste, ottavi in classifica, affrontate l'Emporio Armani Milano, secondo me, beh, posso dico molto difficile il confronto tra voi e loro, però hai ragione, avete vinto il vostro campionato alla grandissima. Ma ti volevo dire, sbaglio se dico che Varese è stato il momento più magico della tua carriera? Ma sicuramente da dove, forse non proprio da dove tutto è iniziato, però diciamo che la vittoria dello scudetto è stata la grande cosa, no? La prima grande cosa vera, insomma, cioè, non posso rinnegare Verona, perché Verona per me è stata importantissima, per come sono cresciuto, spazio che ho avuto, per quello che poi abbiamo vinto, perché comunque abbiamo vinto una Supercoppa, siamo arrivati in finale di Coppa Italia più volte, siamo andati ai playoff anche lì, cioè nel senso abbiamo lottato molto, ma il fatto di comunque arrivare allo scudetto in una squadra del genere, in un'annata magica come è stata il 99, effettivamente non sbaglio a dirlo, però sai, insomma la vita è fatta di, diciamo, la carriera più che la vita in questo caso è fatta di singole annate che si sommano una al fianco all'altra. Sì. Infatti mi chiedono, ma sai chi è stato il personaggio, il giocatore, l'allenatore, il personaggio di riferimento, queste cose. È impossibile da dire, perché ogni anno tu vivi in simbiosi con dei compagni di squadra che ti senti ogni giorno per telefono, sì, vai al cinema assieme, vai a cena assieme, fai tutto assieme, crei dei gruppi che veramente lavorano assieme dalla mattina alla sera, e che poi insomma cercano di dare il massimo, quindi è difficile dire uno piuttosto che l'altro. È ovvio che poi dopo ci sono i momenti dove hai vinto, allora ti ricordi di più, certo. ti un po' di più, ma non sarebbe giusto insomma dimenticare qualcuno. Quindi io nei ringraziamenti che ho fatto ho ringraziato tutti i miei allenatori, tutta la società e tutti i compagni di squadra soprattutto. Sì, perché la parola è giusta, puoi vincere o perdere, ma in ogni anno sei cresciuto, giusto? Sì, oddio, ci sono state anche le annate in cui cali un po', cioè, nel senso ti fortificano, poi devi sempre comunque pensare a meglio, quindi pensare positivo e soprattutto mettersi in discussione di volta in volta. Sì. Insomma, quello che ho imparato nella mia carriera, che è un giocatore che è fortissimo da una parte, può essere meno forte da un'altra, perché il gruppo che esalta il tuo risultato, quindi bisogna sapersi bisogna saper costruire il gruppo nella maniera migliore, e che il gruppo è finalizzato ad esaltare le qualità di ogni giocatore, perché ogni giocatore, certo, ha pareggi, certo, difetti, quindi. Certo. Senti Jack, ti faccio una domanda extra. Oggi abbiamo parlato per due ore bla bla bla di codice etico e di queste cose. Tu sei stato, l'ho detto prima, capitano di una nazionale indimenticabile della nostra storia. Quante partite in nazionale hai giocato? Più fine. Di 200 qualcosa, sono tra i primi 10 comunque. Sì, 200 fischia. Ho avuto mi ricordo che ho avuto la medaglietta d'oro più grande, perché a 100 te ne danno una, a 200 te la danno più grande. Senti, ma questa storia del codice etico, cioè a te piace come idea un codice etico che sovrintende alle convocazioni? A me no. Ma guarda, lo sport per definizione non dovrebbe avere non dovrebbe aver bisogno di un codice etico, perché comunque la mentalità sportiva e l'atteggiamento sportivo è per definizione insomma qualcosa che si lega all'etica. Detto questo, a volte va ricordato, e a volte va ricordato che comunque stiamo giocando. È vero che è una professione la nostra, ma stiamo giocando e dobbiamo soprattutto sapere che siamo dei modelli per chi ci guarda da fuori, ma soprattutto per i ragazzini che sono i più appassionati, che poi assorbono come delle spugne le nostre gesta, i nostri comportamenti. Questo non è da poco, e avendo sempre questo in mente penso che si dimenticherebbe presto di insultare qualcun altro, di fare delle scorrettezze, perché inevitabilmente noi dobbiamo essere degli esempi, e quando facciamo qualcosa di scorretto dobbiamo saperlo anche ammettere, perché può succedere, sì, e chiedere scusa, sì, e cercare appunto di memorizzare quello che deve essere poi l'obiettivo finale, cioè per evitare di ripetere certi comportamenti, certamente comportamenti che possono succedere, però l'importante è averne la consapevolezza e non andare a cercare delle scuse altrove. Certo che Jack, questo momento della pallacanestro italiana di etico a pochino, perché insomma la settimana scorsa è stata, per me che amo questo sport, una delle peggiori in assoluto, e tu sai a cosa mi riferisco, perché vedere un presidente della Lega Basket in manette per me è stato uno shock, e lo confermo. Ma guarda, c'è di positivo che non è ancora presidente della Lega Basket in tutto ciò. Io guardo sempre un po' il positivo, nel senso che comunque abbiamo un altro presidente, Renzi è ancora in carica, e quindi non era ancora operativo Minucci, però senza adesso io non anticipo la giustizia, non voglio insomma prendere una parte in questa cosa che è talmente delicata. Però insomma sicuramente il movimento non ha fatto una buona figura, e bisogna dare una risposta con i fatti di un movimento che deve essere, appunto per tornare al discorso di prima, un movimento serio, un movimento che comunque deve dare l'esempio, non può essere appunto minato alla base da qualcosa del genere. Non poi bisogna raccontare bugie. Tutto da verificare. Sì, verifichiamo tutto quello che vuoi, però non bisogna più raccontare bugie. Non bisogna più raccontare bugie. No, infatti, perché io credo che poi con una riflessione sociale in questo caso, con la velocità con la quale si diffondono le notizie, con la velocità con la quale si diffondono soprattutto le opinioni, bisogna stare molto attenti a quello che si dice, a quello che si fa. C'è ragione, perché oggi, nel senso, una cosa condiziona, una piccola cosa condiziona molti, e un piccolo gesto può condizionare veramente molti e rovina l'immagine molto velocemente. Assolutamente. Quindi, gli strumenti che abbiamo per le mani sono importanti, sono fantastici, però vanno utilizzati nella miglior maniera. Bisogna soprattutto far sì che lo sport torni ad essere sport con l'idea della correttezza come primo valore. Della correttezza in tutti gli ambiti, comprese quelle societarie. Senti, ti saluto Jack, mi hanno detto, io mi sono informato, mi hanno detto che va a fare team manager di Pozzecco a Varese. Sì. È vero, no? No, non lo capirò, non sono per niente ancora. No, vabbè, intanto vediamo se il Pot va ad allenare, perché questo ho sentito anch'io la sparata, sì. Non so se è una sparata da tifoso di Varese, il quale rimarrò sempre, me lo auguro, però insomma io credo che il Pot stia facendo qualcosa di grande anche a Capo d'Orlando. Ah. E che comunque dovesse raggiungere, adesso non voglio dire niente, non voglio portargli sfiga, quindi sto zitto. Però insomma dovesse fare bene, molto bene lì a Capo d'Orlando, non so se insomma sarebbe in grado di lasciare così, insomma, per scelta sua o per della società, quindi aspettiamo. Secondo me è da stare a vedere, sicuramente non so se è più provocazione o intento futuro, però insomma, è una cosa che mi piacerebbe assolutamente vedere da appassionato di basket, oltre al fatto che insomma, a parte tutti i difetti che può avere il Pot, un pregio ce l'ha, nel senso che capisce di pallacanestro. Questo è sicuro. Questo è sicuro. E quindi no, insomma, ciò che ho parlato più volte ovviamente di pallacanestro con lui, e so che comunque è un appassionato, ma soprattutto è anche un bravo allenatore, cioè nonostante c'è da poco sul campo. Sì. Poi magari devi imparare a essere un po' più diplomatico, ma non si può avere tutto dalla vita. E, no, quello gli va fatto una bella tirata d'orecchio. Ma che tirata d'orecchio? È impossibile. No, ma questo lo deve capire, perché lui parte ovviamente dall'essere un personaggio, quindi sì. gli viene permesso anche un po' troppo ogni tanto, no? Mm. E questo dovrebbe saperlo, quindi essere cosciente di questa cosa qua, e sapendo di essere un bravo allenatore, una gran persona, una persona insomma che può dare tanto, sì, alla pallacanestro anche da allenatore. Deve darsi una regolata, ma su certi atteggiamenti, non tanto per sé o per la sua immagine, ma per il rispetto degli altri. Bravissimo, grande Jack. Senti, vengo a vederti contro Milano, lo prometto. Perfetto, tutti quanti a vedere anche te. No, io ci provo. E noi puntiamo a vincere, nonostante i pronostici. Vabbè, ma claro che sì, come sempre in carriera, caro Jack Galanda. Grazie. Ci fermiamo, grazie Giacomo. Giacomo Galanda, ci fermiamo per il traffico, poi torniamo insieme. Tutti convocati. Allora, grazie al nostro ascoltatore, prima abbiamo scoperto che Defendi entra nella lista dei 30. Che Agazzi, capitano del Bari, abbiamo invece prima parlato. Che Agazzi rientra nella lista dei 30 di Prandelli. Il Genoa ha fatto un tweet: convocati Girardino e Perin, complimenti. Poi questo tweet è stato rimosso da Genoa, ma le parole restano, non volano via. Quindi Girardino e Perin saranno nella lista dei 30. Andrea, Reggio Emilia, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao. Dimmi. Dunque, io intervenivo in merito al codice etico della nazionale. Io credo che non sia stata un'idea brillantissima quella di imporre questo codice, anche perché alla fine mi sembra più che altro una presa in giro. La verità è che ci sono dei giocatori che sono più titolari di altri, uh-huh, e dei quali non si può fare a meno. Dai, cosa fa il mondiale senza Chiellini? Infatti, com'è giusto che sia. Su, basta. Prandelli poteva dire: non me la sono sentita di applicarlo, però basta, cioè che ce lo tolga dai piedi, sì, ma soprattutto lo costituisce un ostacolo a lui, cioè diventa un ostacolo per lui ogni volta stare a spiegare: no, decido io, questo era così e quello era colà. È diventato, alla fine, insomma, la parola giusta la usa Pardo, si è incartato su questo codice etico. Poi anche senza codice etico, se il codice etico non c'è, allora Prandelli può dire: no, quello lì non lo convoco perché si è comportato male in quella situazione e dunque io lo lascio a casa. Non c'è bisogno di che dietro ci sia un codice. Poi, ripeto, non allena la squadra della parrocchia, allena la nazionale italiana di calcio che va verso i mondiali, dunque sarebbe assurdo in nome di chissà quale principio lasciare a casa un giocatore fondamentale. A proposito di mondiali, ciao Sara Tardelli. Ciao Carlo, finalmente. Come stai? Con la tua quota rosa. Sei contento di sentirmi di nuovo? Sono molto felice. Bravo, però la maglietta io non l'ho ancora ricevuta. Quella di tutti con voi. Io neanche mia cara. Che mi frega che non hai ricevuta, no, me l'hai promessa. E te l'ho promesso, capito? Se non la danno nemmeno a me. Insomma, io chiedimi quello che vuoi. La maglietta non ce l'ho, non me la danno. Non me la va danno. Bene, va bene. Allora mi inventerò un'altra cosa da chiedere per martedì prossimo. Mi porti in Brasile? Permesso. Ti porto in Brasile e ti dico una cosa. Allora, io mi sono informata con una mia, diciamo, risorsa, fonte, che vive a Rocinha, che come saprai è la favela più grande, è tra le più pericolose di Rio de Janeiro. E lei, vabbè, intanto mi ha detto che stanno mandando in continuazione uno spot in TV, ovviamente, dove si vede Baggio che sbaglia il rigore contro il Brasile. Ma dai, veramente? Sì, giusto. Ma che cattivi. Gufarcela bene, esatto. E poi quello che diciamo viene fuori è che conviene andare nelle favela a vedersi le partite di pallone durante i mondiali, perché c'è una gara a chi addobba di più le strade, cioè praticamente mi ha detto che dipingono tutto verde oro. Meraviglioso. Sì, ma le strade, i marciapiedi, l'interno delle case, pensa che sciccherie. Ma dai, ma non è un po' pericoloso, Saretta? Dipende, se mi chiedi ti do il contatto di questa Barbara Olivi, che è un'italiana, una milanese come te, che vive a Rocinha da 13 anni, quindi sì. Se vuoi andare io ci andrei volentieri, ma dovrò stare davanti a questo microfono, ho la sensazione, per tutto il tempo. Poi è chiaro che lì sarà un ambiente magico. E invece sai ancora chi è il giocatore più, diciamo, noto? Paolo Rossi. Sì, certo. Un trauma collettivo, non riesco trauma a superarlo. Cranico, però. Un trauma collettivo. Gli ho detto: ma come, ancora Paolo Rossi? Dice: sì, Paolo Rossi. Non si riesce ad andare avanti. Speriamo che ne trovino un altro adesso, da non dimenticare più dei nostri. Sì, eh? Poi non so se hai visto, ma a proposito di spot, molto carino quello che mi hai detto. Non so se tu hai visto invece uno spot che io cito spesso, quello del fantasma dell'Uruguay del 50 che aleggia su tutto il Brasile. L'hai visto? Ah, caspita, ma lì voglio dire, si sono suicidati in tanti, eh? Lo so, ma sai che c'è questo. Cioè, speriamo di no. C'è questo spot. No, ma c'è questo spot della Puma, lo dico, senza far pubblicità a nessuno. Nota marca di abbigliamento. Ma tu non te compri quelle scarpe. Ma quindi non lo so, io uso solo le ciabatte brasiliane infradito. Ah, meraviglioso. No, c'è questo spot molto bello. Che insomma, c'è il fantasma dell'Uruguay del 50, questo lenzuolone celeste col numero 50 dietro, che va a spaventare tutti i brasiliani in giro, da Copacabana si nasconde sotto la sabbia, sbuca all'improvviso, meraviglioso. Certo, senti, in più, ma tu lo sapevi che durante i mondiali c'è proprio una cosa del governo, hanno deciso che nessuno andrà a lavorare? Davvero? Ferie pagate? Veramente? Sì. Io ho un po' paura, cioè ci faranno un bel tifo, eh? Noi andremo in tre gatti contro tutto un paese in vacanza. Contro tutto un paese in vacanza, contro tutto un paese danzante, contro tutto un paese per il quale il mondiale è la grande messa pagana. Esatto, quindi, proposito di samba. Saretta, dimmi l'ultima che devo chiudere, perché ho un migliore ascoltatore di oggi. A proposito di samba, io ti faccio una sorpresa, non ho potuto resistere. Senti cosa si può trovare sulla spiaggia di Copacabana se non si sta attenti. C'è una cosa che però mi rende triste. C'ho una malattia che in Brasile non esiste. A dispetto tu colore mio mulatto, tengo un culo quasi totalmente piatto. Ma no, un culo quasi totalmente piatto. Ciao Sara. Ciao Sara Tardelli, alla prossima. Allora, chiudiamo al volo con il miglior ascoltatore di oggi, che porta a casa invece, beato lui, la maglietta di tutti i convocati. Allora, Luca da Bergamo, grazie dell'attesa. Allora, io questa mattina per lavoro in provincia di Bergamo ero presso un don, nel senso che io lavoro con la categoria clericale, diciamo così. Sì. E questo don era in compagnia di un ragazzi, insomma, che io continuavo a guardare e dicevo: ma cavolo, io questo l'ho visto, io questo lo conosco, io questo lo so, io so chi è, però non mi veniva. ovviamente era accompagnato la sua ragazza e tutto il resto, ed era strafelice. E diceva questo mio cliente, diceva: guarda, io sono contentissimo perché domenica ovviamente ci siamo salvati, quindi era importante, ma sono strafelice, ma camminava a un metro da terra praticamente, perché mi ha convocato Prandelli. E lui era il mitico Michael Agassi. Agassi? Esatto.